persino la pioggia sa di sale. Bevo ogni goccia che cade nel cortile. Ai primi accenni di una stagione, un desiderio di sole può ingannare ciò che può tacere. Ogni silenzio e cristallo può cadere sotto i miei passi, lo sento frantumare. Mi rendo conto che è un'ossessione, ma se nel cielo continuerà a brillare, si può deflagrare. Dove il silenzio va, dove il silenzio appare, dove il silenzio è pioggia, sa di sale. Senti il suo sapore.